e un bank statement, ovvero una lettera dalla banca che attesta che i soldi necessari per permetterti l'affitto ce li hai. Sbrigata la pratica alloggio, ci sono altri passi per mettere piede oltreoceano, passi burocratici ovviamente? Burocratici no, però la prima di tutti, io direi, l'assicurazione sanitaria è assolutamente importantissima da avere quando ci si trasferisce negli Stati Uniti, e poi direi un conto corrente e prendere un numero di telefono americano. Allora Giulia, ringraziandoti per la miriade di consigli preziosissimi che ci hai fornito oggi, sono stati veramente tanti e spero saranno utili per tutti coloro i quali vorranno in qualche modo seguire i tuoi passi, ti pongo l'ultima domanda di rito. Quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio? Innanzitutto consiglierei assolutamente di fare questa esperienza senza esitazioni, perché ti forma veramente non solo a livello personale ma anche professionale, in quanto si può fare esperienza e vedere come all'estero si lavora e si vive. Poi, praticamente parlando, direi informarsi il più possibile da casa, avendo tutti i documenti necessari poi una volta arrivati là, e se possibile magari intercettare una conoscenza o un'amicizia sul posto che ti possa aiutare ad ambientarsi meglio. Ultimo, ma non meno importante, sicuramente avere un'ottima padronanza della lingua e uno spirito di adattamento. Per quanto riguarda in particolare la California e gli USA in generale, io vorrei dire a tutti quelli che pensano di iniziare un'esperienza di questo genere che gli americani, a differenza magari di quello che succede da noi, ti valuteranno sempre per quello che fai e per il valore aggiunto che poi porti, indipendentemente da dove arrivi o di chi sei. Quindi sicuramente investire sempre sulle proprie capacità. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa prima puntata estiva è il nostro tour coast to coast negli Stati Uniti. Dopo la California, che abbiamo visitato insieme a Giulia Baggini, ci spostiamo sulla East Coast per incontrare un International Real Estate Advisor al lavoro a New York. Andrea, 37 anni, è iniziato nel mondo della consulenza prima di spostarsi verso la sfera degli investimenti immobiliari, circostanza che lo ha portato a sbarcare nella Grande Mela. Lo scorso marzo Andrea ci ha offerto un'immersione nel mondo professionale a Manhattan. Buon pomeriggio, Andrea Pedicini. Ciao Sergio. Originario di Pordenone, studi economia all'Università Ca' Foscari di Venezia, ti specializzi in marketing e comunicazione, dopodiché avvii il tuo percorso lavorativo nell'ambito della consulenza. Questo ti porta a fare una prima esperienza negli Stati Uniti a San Diego, poi dopo il tuo rientro in Italia arriva l'occasione di lavorare oltreoceano. Allora, quando sei partito per New York e per fare cosa? Dunque, io arrivo a New York a gennaio del 2010 e ci arrivo in maniera del tutto fortuita. Una volta rientrato dalla California, a fine 2009, decido infatti di partecipare all'ultimo minuto ad una cena organizzata da alcuni amici e qui conosco il responsabile di questa società immobiliare italiana che aveva un ufficio a New York e stava cercando appunto un nuovo manager, a cui mando il curriculum e di fatto poi a gennaio mi trovo a New York. E poi come si è sviluppata la tua carriera oltreoceano? Dunque, io nel giro di circa 6 mesi a New York ho ricevuto e accettato un'altra offerta di lavoro, migliorativa rispetto a quella che avevo ricevuto prima di arrivare a New York, da parte di un'altra società operante nel settore immobiliare a New York e specializzata nel rapporto con gli investitori europei. Per questa società ho svolto il ruolo di Marketing e Business Development Manager fino alla fine del 2015, e qui tra l'altro ho anche conseguito la licenza da broker superando un apposito esame predisposto dallo Stato di New York. Infine, a inizio 2016 ho ricevuto una terza offerta di lavoro, direi irrinunciabile, da parte del gruppo Corcoran, che è una delle principali realtà di intermediazione immobiliare di New York, dove lavoro tuttora. E cosa fai? Seguo una clientela internazionale di investitori, sia istituzionali e individuali. Il mio lavoro consiste principalmente nell'individuare occasioni di investimento immobiliare qui a New York, nel gestire le trattative legate agli acquisti e poi chiaramente alla gestione successiva degli investimenti nel corso degli anni. Bene Andrea, arriviamo allora ai tuoi consigli pratici su come farsi strada oltreoceano. Tu li riassumi in pochi essenziali punti. Partirei dal livello di conoscenza dell'inglese, che è molto importante. Sì, direi che è impensabile trasferirsi a lavorare negli Stati Uniti senza una solida base linguistica. Questo sembra scontato, ma ahimè il livello medio dell'inglese scritto e parlato di noi italiani solitamente non è dei migliori, e quindi fondamentale costituire una base solida per quanto riguarda l'inglese. Va poi detto che in linea di massima qui trova lavoro solo chi può dimostrare di essere molto qualificato nel proprio ambito, soprattutto sotto questa amministrazione, l'amministrazione Trump, che dal 2017 ha deliberatamente promosso una vera e propria stretta sui visti lavorativi. Però ti chiedo anche perché tu suggerisci di far tradurre il proprio titolo di studio? Beh, è fondamentale far capire precisamente al datore di lavoro americano di quali titoli di studio si dispone, in modo tale da facilitare una comparazione con quelli americani. Una comparazione che non è sempre immediata, dato che i due sistemi scolastici, o per meglio dire universitari, sono abbastanza differenti. E quale tipologia di annunci di lavoro cercare o selezionare per aumentare le possibilità di colloquio? Ma è ovviamente utile puntare ad annunci di lavoro che possano valorizzare l'essere italiano, quantomeno europeo. Ma è evidente, ad esempio, che una società americana che fa molto business in Italia, o quantomeno con italiani, sarà più incentivata ad assumere un italiano. Altrettanto suggerito è puntare a società italiane con sede negli Stati Uniti. Nella sponsorizzazione del visto H1B, ad esempio, che è uno dei visti più diffusi tra gli stranieri, l'azienda deve infatti motivare l'assunzione spiegando perché si renda necessario assumere uno straniero piuttosto che un americano. Problema visti l'hai appena accennato, ne hai anche citato uno, ce ne sono altri a cui tu suggerisci di puntare? Ma il tipo di visto in generale dipende dal proprio percorso di studi, dal percorso lavorativo, non c'è una ricetta unica per tutti. Direi che a un giovane che sta ultimando i propri studi universitari in Italia consiglierei di valutare la possibilità di effettuare un periodo di specializzazione negli Stati Uniti ed approfittare poi del cosiddetto OPT, che è l'Optional Practical Training, cioè un periodo di lavoro della durata di 12 mesi direttamente correlato al proprio ambito di studi qui negli Stati Uniti. Questo resta il modo più sicuro per entrare nel mondo del lavoro in America, anche se è piuttosto dispendioso. L'hai appena citato, cioè per aumentare le proprie chance provate anche a studiare, a specializzarvi negli Stati Uniti. Allora ti chiedo, come scegliere un master o un dottorato negli Stati Uniti? Soprattutto è costoso. Sì, è costoso sicuramente. Il master o il dottorato va ovviamente scelto sulla base del proprio percorso di studi e anche della propria propensione personale. È certamente indicato per chi punta ad una carriera internazionale. I costi dipendono dall'ateneo, ma per darvi un riferimento basti pensare che un MBA, cioè un Master in Business Administration presso l'Harvard Business School, costa circa $72,000 all'anno solo di tuition, quindi di iscrizione, a cui poi bisogna aggiungere anche i costi di vita e alloggio, ovviamente, poco meno, circa $64,000 all'anno a Berkeley, in California, giusto per avere un riferimento anche sulla costa ovest. Allora Andrea, concentriamoci adesso sul tuo settore, quello immobiliare. Quale percorso di studi è meglio aver svolto per approdarvi? Allora, innanzitutto va specificato che non esiste un visto lavorativo per fare il broker immobiliare, quindi per fare quello che io sto facendo oggi. Per un non americano è necessario iniziare da una posizione manageriale, come ho fatto io all'inizio della mia carriera. I percorsi di studi più indicati in generale sono quelli o rivolti al marketing e alla comunicazione, come il mio, oppure quelli un po' più analitici finanziari. E quali sono i siti che tu consigli per cercare lavoro nel settore immobiliare? Ce ne sono di specifici, oppure siti anche più generali per cercare lavoro a New York? Qui funziona molto bene LinkedIn, che dà la possibilità di applicare direttamente tramite la piattaforma stessa tutte le volte che viene individuata un'offerta di lavoro in linea con il proprio profilo. È quindi fondamentale rendere il proprio profilo LinkedIn il più accurato possibile, in modo tale da poter essere matchati con le offerte di lavoro che si presentano sul mercato. Il tuo lavoro nel settore immobiliare può risultare oggi molto utile per aiutarci a comprendere le dinamiche della problematica alloggio. Allora, come identificare innanzitutto il budget per l'affitto nella grande mela? Dunque, per chi non ha la fortuna di trovare un contratto lavorativo che comprenda l'alloggio pagato dal datore di lavoro, diciamo che è una cosa piuttosto diffusa per posizioni senior o executive,